notizia nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 25 settembre, sole in regione sorto alle 7 e tramonterà alle 19.03. Oggi c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. C'è un allarme per i vigneti della regione, soprattutto nel Pordenonese, dove si sta registrando un forte aumento di casi di flavescenza dorata, malattia gravissima che può portare all'eradicazione di intere vigne. L'ERSA ha in atto una campagna di informazione e prevenzione per arrestarne il dilagare. A seguire la rubrica del biologico, comparto che sta celebrando in questo weekend le sue giornate europee, momenti di riflessione e analisi costi-benefici. Ancora le varie influenze della temperatura sulla fermentazione alcolica nello spazio che dedichiamo al vino e per la nuova rubrica dei forestali un contributo sull'organizzazione del corpo in regione. Come intercettare e usare l'acqua piovana per l'irrigazione dell'orto è una vecchia ricetta di polpette con frattaglie di fegato, milza e cervella nelle rubriche dell'orto e della gastronomia. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. C'è un allarme nelle vigne del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nel Pordenonese. C'è una recrudescenza di flavescenza dorata, una malattia che mette a rischio migliaia di viti e addirittura vigneti interi. È una malattia conosciuta. Di cosa si tratta? Lo chiediamo a Marco Stocco, tecnico dell'ERSA. Si tratta di un fitoplasma che vive all'interno del floema della vite, quindi nel flusso discendente che porta la linfa verso le radici. Colpisce tendenzialmente delle varietà tipo Chardonnay, la Glera. Il Tokaj friulano invece è meno sensibile a questa patologia. Tuttavia non è immune. Questa malattia ha un carattere molto epidemico, è trasmessa da un vettore che è una cicalina chiamata Scaphoideus titanus, che è altamente efficiente. Quando le vigne superano una soglia del 20% di viti malate, l'ERSA interviene con un decreto di estirpo obbligatorio in cui viene tolto l'intero vigneto, altrimenti con tassi di infezione inferiori viene tolta la singola vite e c'è un trattamento obbligatorio da effettuare per la lotta al vettore. Cosa sta succedendo in questi giorni? Quali le superfici? Quante viti, quanti vigneti sono colpiti? C'è un gradiente da ovest verso est, in cui appunto nella provincia di Pordenone troviamo delle zone molto più colpite, mentre nell'Udinese queste aree sono ancora sporadiche, ma sta crescendo la diffusione negli ultimi anni della malattia, in quanto venendo meno alcune molecole insetticide, quelle che abbiamo a disposizione sono meno efficaci di quelle di un tempo. Un altro aspetto importante è che le grandi superfici di pianura sono spesso trattate da terzisti, i quali magari non utilizzano volumi adeguati di acqua e pertanto la lotta insetticida al vettore non è così efficace come era un tempo. Che fare dunque? Due sono le strategie. Uno è individuare le viti malate e provvedere all'estirpo il prima possibile. E due è monitorare il vettore e fare i trattamenti insetticidi. Queste sono le due armi efficaci che ci hanno portato negli anni a dei risultati molto buoni. ERSA è parte attiva in questa lotta proprio in questi mesi. Esattamente, ERSA nel suo compito istituzionale è appunto monitorare le malattie da quarantena. La flavescenza è una di queste. Vista l'emergenza sul territorio regionale, ERSA si è attivata dando dei fondi alle cantine sociali e ai consorzi DOC al fine che possano andare puntualmente nelle aziende a sensibilizzare l'agricoltore e a far riconoscere i sintomi, in maniera tale che gli interventi avvengano il prima possibile e si effettui una eradicazione puntuale. Da esperto, si può dire che il vigneto Friuli sia a rischio? Assolutamente sì, in quanto nelle zone in cui il monitoraggio non è così puntuale, si è visto un crescere della diffusione della malattia e quindi tornare ad andare in vigneto, vedere le viti e andare a individuare i sintomi rimangono il ruolo principale dell'agricoltore e del tecnico. Questo farà sì che si potrà gestire la malattia senza che questa comporti un danno eccessivo al vigneto. Si conclude oggi una 3 giorni dedicata al settore biologico in regione. Ancora una volta Cristina Micheloni ci ricorda quanto e come sia strategico questo comparto per il settore agricolo e non solo. Dovrei parlarvi della giornata europea del biologico e di come sia diventato un intero fine settimana nella nostra regione. Ma la prendo un po' larga perché questa che va a concludersi è una settimana densa di eventi e di peculiari coincidenze. L'evento di maggiore risonanza è di certo l'appuntamento elettorale e la coincidenza è che la potenziale durata dell'esecutivo che ne uscirà coincide con la programmazione della prossima PAC, la Politica Agricola Comune. Qualcosa che pesa circa il 30% del bilancio dell'Unione Europea e per l'Italia significa circa 7 miliardi di euro l'anno. Ma qualcuno ha sentito parlare di agricoltura o di sistema agroalimentare o di agricoltura biologica in campagna elettorale, nonostante l'evidente ruolo che il settore ha nella transizione ecologica, nella prevenzione delle crisi alimentari e nell'emergenza climatica? Qualche numero basato su recenti pubblicazioni scientifiche. L'insieme delle strategie di gestione del suolo e fertilizzazione organica che caratterizzano il biologico portano a una riduzione del 40% delle emissioni di protossido di azoto, un gas serra assai persistente. Un altro numero, le pratiche biologiche con lavorazione ridotta del terreno aumentano del 20% lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo, cioè immagazzinano la CO2 togliendola dall'atmosfera. Il biologico produce poco? Ma, dati alla mano, la produttività dell'agricoltura biologica è più stabile e diventa molto più competitiva rispetto al convenzionale, soprattutto in condizioni climatiche estreme, come siccità ed eccessi di precipitazioni, che purtroppo sono sempre più comuni. Qui il biologico può avere prestazioni anche del 30% migliori rispetto alla coltivazione convenzionale. Ma ritorno al titolo di questo intervento. Il 23 settembre è stato dichiarato dal Parlamento europeo la giornata europea del biologico e, ennesima coincidenza, quest'anno è stato anche il giorno dello sciopero globale per il clima dei ragazzi di Fridays for Future. Anche qui l'agricoltura c'entra, come abbiamo appena descritto, così come c'entrano le attività forestali e il sistema alimentare con le sue inefficienze, sprechi e dannose devianze da ciò che ci fa bene, cioè, ovvero fa bene agli umani, agli animali e al pianeta, e da ciò che davvero ci serve. Mai così a fagiolo casca quindi l'opportunità di conoscere il biologico e che cosa esso significhi per l'ambiente, gli animali, la terra e le persone, offerto dai 18 eventi organizzati da AIA Friuli Venezia Giulia in tutta la regione, non solo per lo scorso venerdì, ma per tutto il fine settimana. Oggi è l'ultimo giorno, al sito aiab.fvg.it e ai social tutte le informazioni e i programmi ludici, istruttivi, gourmand. L'influenza della temperatura della fermentazione alcolica sulla produzione dei principali metaboliti del lievito è il titolo del contributo del professor Roberto Zironi per la rubrica del vino. Nel corso degli anni le tecniche di vinificazione hanno subito diversi cambiamenti ed oggi la componente aromatica assume un ruolo fondamentale nel determinare la qualità del vino e i processi di vinificazione che ne migliorano le caratteristiche olfattive non possono essere trascurati dai produttori. Nella produzione di un vino bianco, per conservare la finezza e la qualità degli aromi, la temperatura del processo dovrà essere mantenuta in un intervallo compreso tra i 15 e i 20 gradi, che permettono uno sviluppo ottimale degli aromi, una lenta trasformazione degli zuccheri e un'eccellente resa in alcol. Se la temperatura è troppo bassa, inferiore ai 15 gradi, il processo potrebbe bloccarsi. Se troppo alta, la velocità della fermentazione va fuori controllo, con perdite di aromi che si disperdono nell'aria veicolate dall'enorme quantità di anidride carbonica che si sviluppa, con il risultato di ottenere un vino ordinario e privo di qualità organolettiche gradevoli. La durata della fermentazione, a seconda del tipo di mosto e dell'intervallo ottimale di temperatura, può variare tra i 5 e i 15 giorni. Nell'intervallo di 15-20 gradi, ulteriori scelte possono essere fatte in funzione del tipo di vino che si vuole ottenere. In generale, le temperature più basse favoriscono la produzione e il mantenimento in soluzione di aromi dati dagli esteri fermentativi. A temperature prossime o anche leggermente superiori ai 20 gradi, è invece favorita la liberazione degli aromi varietali, in particolare tiolici, dai loro precursori. Quindi un vitigno povero di precursori varietali converrà a fermentarla a 15 gradi per favorire la produzione degli esteri fermentativi, mentre il mosto di Sauvignon ricco di precursori tiolici sarà fermentato a temperature intorno ai 20 gradi. Inoltre è possibile programmare la fermentazione secondo intervalli variabili di temperature. Lo stesso Sauvignon può essere fermentato inizialmente alla temperatura più alta con liberazione di tioli, per poi esaurire gli zuccheri a temperature più basse con produzione di esteri. Il risultato sarà un vino Sauvignon più complesso, per la presenza contemporanea di tioli ed esteri di maggiore intensità olfattiva. La fermentazione è un processo esotermico, cioè genera calore. La fermentazione di un mosto contenente 180 g litro di zucchero permette teoricamente di elevare la temperatura del mosto in fermentazione da 20 a 45 gradi. I fermentatori sono quindi forniti di adeguati sistemi per lo smaltimento del calore. Secondo uno studio commissionato dalla UE, progetto Tesla, il controllo della fermentazione incide per il 50% del costo energetico della cantina. Quindi oggi l'applicazione di ottimali condizioni termiche di fermentazione, che permettono sia il miglioramento dei caratteri sensoriali del vino che di ridurre l'impatto energetico, non è più una possibilità, ma una necessità. Dopo la presentazione della scorsa puntata, parte oggi ufficialmente la rubrica che dedichiamo ai forestali, al loro lavoro, alla loro organizzazione sul territorio. Con l'ispettore Dario Di Gallo partiamo proprio su come è organizzato il corpo in Friuli Venezia Giulia. Il Corpo Forestale Regionale svolge un importantissimo lavoro di tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo, naturale ed ambientale del nostro territorio. L'amministrazione regionale ha posto dalla sua fondazione, e pone anche oggi, la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente fra le proprie finalità primarie, e il Corpo Forestale Regionale è l'organo tecnico con compiti di polizia nelle materie di competenza che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali, forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e fauna selvatica. Il sistema del Corpo Forestale Regionale fa capo alla Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche, con sede a Udine, che attua il coordinamento del Corpo attraverso il proprio direttore centrale. All'interno della citata direzione si trova il Servizio Foreste e Corpo Forestale, del quale il direttore centrale si avvale nel coordinamento del Corpo stesso, e tre organizzazioni territoriali denominate Ispettorato Forestale, con sede a Tolmezzo, Pordenone, Udine e Trieste. Sono queste le strutture che costituiscono il riferimento territoriale della direzione centrale che coordinano le attività delle stazioni forestali sul territorio stesso. Le stazioni forestali sono complessivamente 28, distribuite in base alle esigenze ambientali in maniera organica su tutto il territorio, dai monti alle alture del Carso. 6. Polcenigo, Pordenone, Pinzano, Maniago, Claud, Barcis, nell'ex provincia di Pordenone. 11. Ampezzo, Forni a Voltri, Forni di Sopra, Moggio, Paluzza, Paularo, Pontebba, Resia, Tarvisio, Tolmezzo, Villa Santina, nella parte montana dell'ex provincia di Udine. 11, di cui 7, Attims, Cividale, Coseano, Gemona, Cervignano e Tarcento, e Udine, nei territori dell'ex provincia. E 4, Duino, Trieste, Gorizia e Monfalconi, nei territori dell'ex provincia di Trieste e Gorizia. Le stazioni forestali sono dunque l'organo operativo attraverso il quale la Regione attua le proprie politiche di gestione degli ambienti naturali e fungono anche da punto di contatto e riferimento, in particolare nel mondo delle aree rurali, tra l'amministrazione centrale della Regione e la popolazione. La gestione dell'acqua piovana per irrigare l'orto, grande o piccolo che sia, ce ne parla oggi Sara Bosco nella sua rubrica. Oggi mi occupo del tema tanto discusso quest'anno, ovvero la disponibilità di acqua durante il periodo estivo. Nella gestione e coltivazione delle culture nel nostro orto, l'acqua è un componente fondamentale per ottenere delle produzioni soddisfacenti o comunque un minimo di prodotto. In questo periodo autunnale e invernale l'acqua che arriva al terreno grazie alle piogge è importante che venga raccolta in cisterne o serbatoi per impiegarla poi nel periodo estivo. È importante che questi serbatoi siano abbastanza capienti in base anche alla superficie del nostro orto e che la superficie sia di percezione di accumulo sia il più ampio possibile. Alcuni consigliano addirittura di convogliare le acque che scendono dai tetti attraverso le grondaie e che vengano intercettate e che vengano condotte all'interno dei serbatoi. Questi infatti permettono di captare una quantità maggiore di acqua grazie al fatto che hanno una superficie molto ampia. I serbatoi di accumulo dell'acqua vanno coperti quando le giornate non sono interessate da precipitazioni, in modo da evitare un'eventuale evaporazione con alte temperature e l'ingresso di corpi estranei. Irrigando con l'acqua piovana avremo diversi benefici, come una minor quantità di cloro nell'acqua, che infatti questo elemento viene utilizzato nell'acquedotto per andare a contrastare il calcare. Inoltre l'acqua quando viene distribuita sarà a temperatura ambiente e si avranno meno problemi riguardo alle scottature delle foglie. La raccolta dell'acqua piovana può avvenire sia negli orti effettuati in pieno campo che quelli sul balcone. Avremo solo una diversa dimensione dei serbatoi, ma il principio è sempre lo stesso. È importante mettere in campo questi piccoli accorgimenti per poter mantenere un equilibrio tra uomo e natura e in modo da preservare il territorio che ci circonda. Snobbate e neglette, le frattaglie stanno pian piano recuperando un loro ruolo in cucina, ruolo da sempre avuto anche con preparazioni di successo. È il caso del fegato, della milza e della cervella che oggi Roberto Zottar ci ripropone in una loro versione in gnocchi. Dato che devo parlare di piatti dimenticati da preservare e aspettando che mi diate voi suggerimenti per le prossime puntate, non posso non ricordare l'uso di frattaglie in piatti di tradizione. Queste stanno scomparendo dalle nostre tavole di ogni giorno per molti motivi, anche forse perché è più facile e veloce cuocere un filetto di manzo anziché cuocere per molte ore delle trippe o togliere la pellicina alla cervella di vitello. Credo che la milza sia tra le frattaglie la più dimenticata, anche se ancora adesso a Palermo il panino con milza e polmone, il famoso panica meusa, è uno dei più tipici street food. Il panino con sopra semi di sesamo viene farcito con milza e polmone di vitello, prima bolliti e affettati e poi cotti nello strutto e maritato con caciocavallo grattugiato. Da noi la milza ha perso il suo appeal nelle tavole casalinghe, ma io ho ancora il ricordo della nonna che raschiava la milza col coltello per realizzare degli gnocchi. In Germania, Austria e Repubblica Ceca i Milz o Leberknödel, cioè gli gnocchi di milza o di fegato serviti in brodo, sono ancora un piatto molto tipico, mentre nella nostra ristorazione locale sono del tutto scomparsi. Per gli gnocchi sculfiat, gli gnocchi di fegato, si usa in genere fegato di manzo o di maiale, ma io preferisco quello di vitello, più delicato e meno amaro. Per realizzare degli gnocchi di milza o fegato delicati, raschiate 250 g di milza con la lama di un coltello o tritate molto finemente un equivalente di fegato di vitello. Montate a spuma un etto di burro, aggiungete sempre sbattendo uno alla volta due o tre uova, mescolatevi mezza rosetta di pane tritata e inzuppata nel latte e la milza o il fegato. A seconda del vostro gusto aggiungete dell'aglio tritato o della cipolla tritata passita nel burro, maggiorana e prezzemolo, salate, pepate e profumate con una grattata di noce moscata. Nel caso si usi fegato, una grattata di buccia di limone risulta molto intrigante. L'impasto va poi regolato con l'aggiunta di pane grattugiato o semolino per raggiungere una giusta consistenza. Con due cucchiai formate degli gnocchetti come quenelle e cuoceteli in acqua salata bollente. Servitili in brodo, spolverati di formaggio grattugiato e decorati con erba cipollina tagliuzzata. Questi gnocchi si possono preparare anche con cervella di vitello o di manzo nella stessa quantità del fegato, ma in questo caso la cervella va prima scottata in acqua. C'è anche un'altra ricetta per realizzarli senza burro montato, più consistenti, tipo gnocchi di pane, con proporzioni di 300 g di pane, 500 g di fegato e 3 uova. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14%, è stato quotato tra 34,30 e 34,60 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 35,50 e 36 euro, l'orzo peso specifico 62,65 tra 31,40 e 31,90. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,30 euro e il frumento di 11,20 il quintale. Stabile l'andamento dei bovini da macello, le vacche fine carriera e prima qualità sono pagate a peso morto tra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda qualità fra 2,60 e 3,20. Pressoché stazionari anche le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono quotati tra 6 e 6,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 4,70, i frisoni tra 2 e 2,30 e i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Facendo un raffronto con prezzi di un anno fa, le vacche fine carriera sono aumentate di 70 centesimi e i vitelli blubelga maschi sono diminuiti di 30 e i pezzati rossi di 40 centesimi il chilogrammo. Mercato con dinamiche rivalutative nel comparto suinicolo, con i lattongeri di 30 kg quotati franco partenza a 3,23 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,98. Prezzi in forte aumento nel settore dei foraggi, causa la siccità, la mancata produzione e la notevole richiesta del mercato. Il fieno maggengo di pianura viene quotato tra 17 e 18 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità fra 34 e 35 euro il quintale, quella pelletata a 35 e la paglia di cereali pressata tra 14 e 15 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nelle ultime due settimane si è verificata la definitiva rottura dell'estate e l'inizio dell'autunno. Inizialmente tra l'11 e il 13 settembre l'anticiclone nordafricano aveva riportato bel tempo e stabilità con temperature quasi estive di pomeriggio, ma poi è stato definitivamente spodestato per l'arrivo di alcune depressioni da ovest e subito dopo d'aria fredda proveniente da latitudini polari. Infatti fino al 14 le temperature minime sono state quasi sempre sopra la media, raggiungendo addirittura uno dei valori più alti per il periodo. In seguito un fronte freddo ha formato una depressione che ha richiamato bora fresca e secca da nord-est e sulla nostra regione abbiamo sperimentato un drastico calo delle temperature. Le minime infatti si sono abbassate di ben 8-10 gradi da un giorno all'altro, toccando la minima più bassa mai registrata a Udine prima del 18 settembre. Fino a ieri ha poi dominato un anticiclone, che ha mantenuto tempo bello ma con temperature sotto la media del periodo. Complessivamente però, fino ad oggi, la temperatura del mese di settembre è stata di circa un grado superiore alla media del periodo. Ora si è aperto un breve periodo piuttosto perturbato, con frequenti piogge e temporali. La discesa a ripetizione di aria fredda artica dal nord Atlantico genera infatti delle saccature, con richiamo di correnti sud-occidentali in quota che convogliano masse di aria umida dal Mediterraneo verso l'Italia. Lunedì avremo nuvolosità variabile, con più nubi sulla fascia prealpina. Sarà possibile qualche rovescio temporale, più probabile nel pomeriggio, alternati comunque a fasi di tempo migliore. Sulla costa soffierà brezza. Martedì potrebbe passare un altro fronte. Il cielo sarà probabilmente da variabile a nuvoloso e si verificheranno rovesci e temporali sparsi. Localmente le piogge potranno risultare anche abbondanti. Al mattino sulla costa soffierà vento da sud moderato, ma in serata entrerà vento da nord su tutta la regione. Mercoledì il tempo potrebbe migliorare nettamente. Le temperature minime scenderanno di qualche grado, mentre le massime rimarranno leggermente sotto la media del periodo. Da giovedì potrebbe tornare una fase anticiclonica che porterà correnti da nord sull'Italia. Noi rimarremo protetti dalle Alpi e il tempo dovrebbe rimanere bello fino a domenica, con temperature in aumento e decisa escursione termica giornaliera. Come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Michele, la chistina e tal fossel, ovvero per San Michele il 29 settembre la castagna è già nel fosso, è caduta dall'albero e quindi si può raccogliere. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vidaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita